Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Le nuove auto in dotazione alla Polizia Municipale di Fusignano, Bagnacavallo e Lugo sono dotate di scritte in arabo sia sul cofano che sugli sportelli laterali. Allora, cosa significa? Forse le amministrazioni locali di sinistra ci nascondono il vero numero di stranieri di lingua araba, residenti o clandestini, sul nostro territorio, dato che si vedono costretti a scrivere in arabo sulle macchine dei servizi pubblici. Ecco perché spingono tanto per costruire loro anche delle mega moschee su tutto il territorio. E forse perché la pressione di tale forza araba sul territorio è veramente grande? Ma poi mi chiedo anche, questa sarebbe l'integrazione come la vorrebbe la sinistra e parte del PDL Confini? Io penso che gli immigrati dovrebbero imparare non solo l'italiano, ma anche il nostro dialetto. Invece le amministrazioni romagnole di sinistra preferiscono imparare l'arabo, cioè la sinistra preferisce far diventare Fusignano e la Romagna come Baghdad e l'Iraq. Mi chiedo quando cominceranno a fare anche i cartelli stradali in lingua araba. Gigi. Gentili signori, riguardo al provvedimento del sindaco di Coccaglio, si può sindacare nel metodo, ma non certo nel merito. Va da sé che White Christmas è di cattivo gusto. Ma non oso pensare i commenti se fosse stato Red, Green, Orrore, le orde della Valcamonica, oppure addirittura Black Christmas, con la visione delle squadracce intente a dispensare olio di ricino ad innocenti magrebini. Il punto è un altro. Io, come tanti altri, pago le tasse, tutte. Bollette di luce, acqua, gas, telefono, tutto. Assicurazione, bollo, abbonamento Rai, biglietto dell'autobus, del treno, del tram, una tantum, una semper, eccetera. Non taglio mai le code, neanche dal panettiere. Pago le multe automobilistiche, anche se il limite era 10 all'ora e io andavo a 12. E, colpa massima, cerco di convincere le mie bambine che è il modo giusto e unico per essere una nazione, una comunità, un gruppo. Insomma, delle persone e non dei babbuini. Come posso spiegare loro che delle persone vengono in Italia senza permesso, violando la legge, si insediano sempre senza permesso in case e poi, solo perché si ribadisce non un concetto, ma il concetto di Stato, non saranno mai espulsi? Queste persone si offendono, si adombrano, insomma si incazzano. Speriamo che Fini dica anche questa parola, così la sdoganano. Come si sentiranno gli altri italiani come me, vedendo che sono degli escrementi sodi in forma cilindrica, cioè degli stronzi? Giordano. Ho seguito il caso del sindaco di Coccaglio, il paesino del Bresciano che sta pianificando una cacciata dei clandestini per Natale. Mi sono stupito ancora una volta di come in Italia, e come sempre, da quando sono qua, 9 anni ormai, si monta un caso sul nulla. Il fatto di chiedere il rinnovo della residenza è più che legale. Abito in un paese della bassa bergamasca e sono 6 anni che il comune, guidato da una giunta di sinistra, ci manda una lettera simile a quella di Coccaglio e nessuno si è mai sentito offeso. Nella lettera si obbligano gli stranieri regolarmente residenti a consegnare un permesso di soggiorno valido, una volta scaduto il primo, pena la cancellazione dall'anagrafe comunale entro 60 giorni. E questo anche se tutti sanno bene che il rinnovo del permesso di soggiorno o della carta durano in media dai 6 mesi a 1 anno. Chi fra noi extracomunitari non ha nulla da nascondere, non teme né controlli di polizia né verifiche dei sindaci delle loro città. Sono ben altri i problemi. Amadou, provincia di Bergamo. Il comune di Bruxelles sta preparando un grande presepe nella Grand Place. Possibile che questa volta la Corte europea non abbia nulla da obiettare? Massimo. Vorrei dire la mia opinione sui cori vergognosi di domenica sera a Torino. Per me questa volta il razzismo non c'entra. E se Balotelli fosse stato bianco, non sarebbe cambiato nulla. In tutti gli stadi ci sono cori che augurano la morte a qualche giocatore avversario. Forse è venuto il momento di fare qualcosa per davvero. I controlli della polizia in curva dove sono? Quelli che lanciano i cori sono di spalle al campo con il megafono. Molto probabilmente non siamo un paese abbastanza civile per il calcio, ma la famosa tolleranza zero tanto sbandierata da Maroni and Company, che fine ha fatto? Io le curve le ho frequentate per un po', ma ho anche fatto alla svelta a smettere, rinunciando allo stadio. Ci vado una volta all'anno e niente più. Se un giorno ripuliranno le curve, ci potrò andare anche qualche volta in più, ma francamente penso che la mia sia una speranza vana, perché questo non interessa a nessuno. Alessandro, da Pistoia. Sul razzismo è inutile che si faccia finta di non capire. I tanti italiani che si professano civili non vogliono l'italiano Balotelli in nazionale, ma si stracciano le vesti per Amauri. Mario non fa niente per essere simpatico, anzi, alcuni suoi gesti esasperano anche noi interisti, ma il continuo stillicidio di insulti è un segnale preciso dell'inciviltà imperante di noi italiani come popolo, e lo stadio rappresenta molto bene il livello a cui siamo arrivati. Claudio. Egregio direttore, sabato sera il vostro programma 30 minuti in cronaca si è occupato di clima, ospitando le opinioni di due studiosi assolutamente certi che il riscaldamento in atto sia responsabilità umana. Mebius, la trasmissione successiva, ha proposto il parere di Stefano Caserini, convinto assertore delle tesi dell'IPCC, l'Osservatorio Internazionale sui Cambiamenti Climatici. In settimana la trasmissione di Oscar Giannino, trattando di Green Economy, ha dato la parola ad Ermete Realacci, il quale ha detto che il riscaldamento è di origine antropica e che quindi non è nemmeno il caso di discutere. Mi domando perché, in vista di Copenaghen, la radio che ascolto non faccia il minimo sforzo per approfondire il tema in questa direzione. Ci sono vari elementi che l'informazione ormai ha criticamente fatto propri, mentre dovrebbero essere inquadrati in una visione più ampia. Per esempio, l'anidride carbonica viene assimilata a un inquinante, cosa concettualmente falsa. Si dà per scontato un ruolo climatico primario dei gas serra, mentre questa rimane una teoria. Le voci discordanti, che non sono poche, sono state messe fuori gioco. Eppure, negli ultimi anni, il ruolo del sole è divenuto oggetto di notevoli attenzioni, tanto da rappresentare una teoria alternativa altrettanto valida nella spiegazione del riscaldamento globale. Nel XX secolo abbiamo infatti vissuto un gran solar maximum, il cui precedente più immediato risale a 11.000 anni fa. In sostanza, la Terra ha ricevuto un surplus di energia solare, surplus che ora sta venendo meno perché il Sole è tornato a uno stato di quiete. E, guarda caso, in questi anni recenti la curva delle temperature terrestri si è stabilizzata, con segnali di inversione di tendenza. Detto ciò, reputo la Green Economy un'opportunità di business, con notevoli prospettive sul piano etico e ambientale. Ma ritengo scorretto che il suo farsi largo avvenga grazie a un bisogno indotto artificialmente, l'emergenza clima, imperniato sulla paura. Tutto ciò con l'acquiescenza dell'informazione, che ha rinunciato a mettere in forse il dogma nel momento in cui la politica ha deciso di farlo proprio. Stefano, Novara. Caro Stefano, la ringrazio per la sua lettera, che mi permette di mettere a fuoco un tema di fondo dell'informazione. Lei afferma in pratica che noi, in alcune nostre trasmissioni, abbiamo dato spazio a una tesi, in questo caso quella del riscaldamento globale, senza metterla in discussione e senza dare sufficiente spazio alla tesi opposta. Ebbene, io non sono d'accordo con questa logica della par condicio sempre e comunque. Non si tratta di praticare il pensiero unico, ma su certi temi l'informazione più corretta è quella che approfondisce, che analizza, che spiega, e non quella che rende la realtà un'ipotesi e tutte le posizioni ugualmente plausibili e corrette. Su Radio 24 abbiamo programmi come Bianco o Nero, condotto da Alessandro Milan alle 8.30 del mattino, che hanno come scelta di metodo quella di mettere a confronto due tesi chiedendo il parere degli ascoltatori. E ci sono altri programmi, come quelli che lei cita, cioè 30 minuti in cronaca di Gigi Donelli e Mebius di Federico Pedrocchi, in cui prevale l'approfondimento e l'illustrazione dei problemi. E il problema del riscaldamento globale è troppo importante per giudicarlo secondo i parametri della destra o della sinistra, dei favorevoli e dei contrari. I dati scientifici sono troppo evidenti per ritenere che tutto si possa risolvere dando semplicemente la colpa al sole o alle stelle. Scrivo riguardo al processo breve. I demagoghi sono all'opera. Stiamo per assistere all'ennesima bestialità in malafede, in chiara malafede. Purtroppo la retorica non ci permette di capire se non facciamo ricorso ad un sano ragionamento, nel senso che sembra che non si riesca mai a capire dove stia la verità. Ma questa è lì. Bisogna solo seguire il ragionamento dialettico e non retorico. Quando fu introdotta la legge sulla prescrizione, l'intenzione era quella di velocizzare i processi, ma l'unico risultato che si è ottenuto è stato quello di allungarli a dismisura, con cavilli di ogni genere, proprio al fine di raggiungere la prescrizione. Ora, di fronte a questa proposta indecente, a questo mostro giuridico, ci troviamo ad accelerare i tempi, estinguendo e sottraendo la giustizia per mancanza di tempo. L'unica soluzione sarebbe quella di stile francese. La prescrizione si blocca dopo la prima udienza. Ogni processo iniziato deve arrivare a conclusione e i gradi di giudizio sono solo due. Alex. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.